Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. L'università italiana è truccata? È un mondo dove si fa carriera se si è figli di o parenti di? È il regno dei baroni, insomma, tanto per usare un'espressione molto chiara. È una realtà dove i soldi sono pochi, oppure i fondi per gli atenei ci sono, ma vengono spesi male? E poi ancora, l'università italiana conta a livello internazionale, competitiva, oppure arranca? Beh, a giudicare da un libro che ho qui davanti, uscito per Einaudi, le risposte a queste domande sono chiare e, lo anticipiamo, tutte abbastanza negative. Insomma, l'università italiana è, con le dovute eccezioni, alla deriva. Saluto il professor Roberto Perotti, buongiorno. Buongiorno. Roberto Perotti è l'autore del libro L'Università Truccata, edito da Einaudi. Sono 180 pagine graffianti sullo stato dell'università italiana. Roberto Perotti insegna macroeconomia alla Bocconi e ha insegnato anche per 10 anni negli Stati Uniti, alla Columbia University di New York. Con lui e con altri ospiti parliamo dell'università italiana. Oltre a Roberto Perotti saluto il professor Umberto Curi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Insegna storia della filosofia a Padova. E saluto il senatore Giuseppe Valditara del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a voi. Tra l'altro voglio ricordare anche docente universitario, si occupa a livello politico oggi di mondo universitario. Parliamo dell'università italiana, è davvero università truccata, come il titolo molto forte del libro graffiante di Roberto Perotti. Lo facciamo subito dopo la borsa. Prima però, professor Perotti, le voglio chiedere, giusto per entrare nel piatto con i piedi, come si suol dire, su 100 concorsi universitari, secondo lei oggi mediamente quanti sono a vario titolo truccati? Uso questa parola per prenderla dal titolo del suo libro. Come si può immaginare è molto difficile rispondere, però se proprio avessi una pistola da tempo e dovessi rispondere, direi diciamo un 50% a varia misura. Uno su due. Da questa percentuale poco incoraggiante ripartiamo. Subito dopo l'apertura di borsa, oggi c'è grandissima attesa dopo il piano europeo di ieri. Alle 9:12, l'università truccata, il titolo del professor Roberto Perotti, edito da Einaudi. Insomma, professore, ci ha detto con una pistola alla tempia, direbbe 50% di concorsi truccati, tra virgolette, o comunque non trasparenti. Iniziava così un articolo del 3 marzo 2005 di Attilio Bolzoni su Repubblica. La stanza numero 24 è quella del professor Giovanni Tatarano, ordinario di diritto privato. Suo figlio Marco insegna lì accanto, nella stanza numero 4. Sua figlia Maria Chiara riceve gli studenti proprio di fronte a papà, nella stanza 12. Tutta la famiglia in un corridoio. Ma mai tanti e tanto esimi come i Massari, 9 tra fratelli e nipoti e cugini, la tribù accademica probabilmente più numerosa d'Italia. Benvenuti all'Università di Bari. Forse l'Università di Bari, che lei tratta nel libro, facendo nomi e cognomi, tra l'altro, è il caso più eclatante di tanta omonimia, diciamo così, professore. Sì, è probabilmente uno dei casi più eclatanti, è difficile investigarli tutti ovviamente, ma Bari salta subito all'occhio ovviamente. E queste cifre credo che parlino da sole, insomma, 9 persone con lo stesso cognome credo che parlino da sole. Perché lei dice il 50% sono poco trasparenti i concorsi? Cioè, ci spieghi innanzitutto come si può truccare un concorso? È un concorso, fino adesso, per gli ascoltatori che non lo sanno, viene indetto da un'università, c'è un posto da coprire, l'università apre un concorso a cui possono partecipare tutti. Il concorso da 2 idoneità, nel tempo sono state 3, poi 1, poi 2, e poi tra le persone idonee l'università chiama quella che vuole, può anche non chiamare nessuno, e chi ha un'idoneità può usarla con altre università per essere chiamato. Quindi ovviamente se l'università apre un concorso è perché ha interesse a far passare qualcuno dell'università, se no non ci sarebbe nessun motivo per incorrere i costi del concorso per far passare, per fare un piacere a tutte le altre università italiane. Questo di per sé non c'è niente di male, voglio farlo notare, il fatto di far passare uno interno non, in sé non è un problema. come ovviamente quando si fa passare il proprio interno a tutti i costi, anche quando questo non ha le stesse pubblicazioni, le stesse qualità di tanti altri che fanno il concorso. È vero che ci sono stati professori o persone che hanno vinto concorsi che hanno avuto addirittura zero pubblicazioni. Ricordiamo, nel mondo universitario la pubblicazione è un metro importante per verificare se uno fa ricerca e dunque in quel campo ha qualcosa da dire di interessante. Sì, io mi sono occupato del mio campo che è economia, dove le pubblicazioni scientifiche sono listate in database internazionali e molti concorsi vincitori hanno zero pubblicazioni scientifiche. Poi hanno sempre un buon gioco a dire che in realtà loro hanno tante pubblicazioni, perché per un professore di economia può sempre dire avere tante pubblicazioni nel bollettino della Cassa di Risparmio della sua città. Zero pubblicazioni scientifiche, mi ha detto. Sì. Cioè, ci sono i docenti che hanno cattedre in Italia che hanno vinto un concorso pubblicando zero volte. Zero pubblicazioni fra le tantissime riviste che comprendono praticamente tutte le riviste scientifiche in questi database internazionali. Ripeto, poi hanno altre pubblicazioni che però è molto difficile definire scientifiche. Lei nel libro parla di quattro miti dell'università italiana. Il primo mito è proprio questo, cioè che nell'università italiana si dice sì, è vero, c'è un po' di nepotismo, che forse riflette anche lo specchio di questo paese, insomma in tutti i settori è così, però in fondo il nepotismo, la corruzione sono limitati, non c'è nulla di difficile. Insomma, a leggere i dati del suo libro, ripeto, poi con tutti i nomi, cognomi, concorsi, chi li ha vinti, quante pubblicazioni, poi chi vuole con passione se lo andrà a leggere, non è proprio così, non è proprio limitato, insomma, non sono limitati i casi di nepotismo o di vera e propria corruzione. Sì, è molto difficile quantificarli, però un modo per farlo un po' in diretta è per esempio andare a guardare l'indice di omonimia nei vari dipartimenti, e qui purtroppo medicina è uno sono i casi più eclatanti, anche perché medicina girano tanti soldi, una cattedra universitaria porta con sé anche tipicamente il primariato in una clinica universitaria, quindi ci sono molti interessi. E devo dire che purtroppo medicina, e non sono io il primo a dirlo, i casi di omonimia, gli indici di omonimia, la percentuale di professori, di docenti che hanno almeno un'altra persona con lo stesso cognome nella stessa facoltà è altissima in molti casi. Per esempio? Ci faccio l'esempio più eclatante. Per esempio al 33%, se poi si guarda a tutte le facoltà della regione arrivano al 40% in Sicilia, qualcosa vicino al 40%. Stiamo parlando dell'omonimia, che non è indice di parentela, ma insomma il rischio è alto. Il 33% dei docenti di medicina a Messina hanno lo stesso cognome. Sì, ci sono casi ancora peggiori. A veterinaria ci sono 65 docenti e l'indice di omonimia è vicino al 50%. Uno su due. Un altro tema sul quale così voglio coinvolgere anche gli altri ospiti, o meglio un altro mito, giusto per mettere i quattro miti sul piatto, un altro mito che lei affronta nel suo libro con tanto di dati è questo: non è vero, come si dice spesso, che all'università italiana mancano i fondi, mancano i soldi. Il problema è che questi soldi vengono distribuiti male e forse spesi anche altrettanto male. Perché lei dice che i soldi ci sono per l'università italiana? Non lo dico io, lo dicono i dati. Se lei confronta la spesa totale per studente equivalente a tempo pieno, cioè tenendo conto che molti in Italia non frequentano, oppure per docente, la confronta con un sistema pubblico, quale quello italiano, come il sistema inglese, viene fuori che la spesa per studente equivalente a tempo pieno in Inghilterra non è molto più alta, è proprio leggermente più alta, forse anche più bassa che in Italia, e la spesa per docente è leggermente più alta in Gran Bretagna. Ma quello che fa la differenza è la distribuzione, cioè in Italia si paga pochissimo i ricercatori in entrata, i più giovani, i più motivati e spesso anche i più produttivi da un punto di vista scientifico, mentre si paga moltissimo, più che in Gran Bretagna, i docenti, gli ordinari anziani che, anche se non hanno mai pubblicato una riga in vita loro, come nella maggior parte dei casi, si ritrovano uno stipendio altissimo per il solo progresso dell'età. Quindi i soldi per calcolati per media per studente ci sono. Qualcuno ha detto, ma ci sono altri dati che dicono in realtà che questi soldi per studente pro capite sono in realtà molto bassi, e lei nel libro dice, beh, ma è molto chiaro, in Italia abbiamo anche circa il 50% degli studenti universitari fuori corso. Allora, se si considerano tutti gli studenti è un conto, se si considerano gli studenti che studiano e che sono in corso, ecco che allora la spesa in questo caso è appunto a livello competitivo con gli altri paesi, così l'ho capita, no? Sì, devo dire che i confronti internazionali, i famosi confronti dell'OCSE, sono sempre fatti tenendo conto degli studenti che non studiano e che non frequentano e contandoli per molto meno di un'unità. Quindi io mi sono semplicemente adeguato ai confronti internazionali e ho aggiustato il numero degli studenti italiani per il fatto che molti di essi non frequentano, quindi ho semplicemente adeguato le statistiche italiane alla definizione usata per gli altri paesi. E allora 800 24 00 24 per intervenire. Due elementi già il professor Perotti ce li ha dati molto chiari. Il primo, insomma, con dati abbastanza inquietanti anche di percentuali, il rischio che nell'università si annidi un nepotismo abbastanza difficile da sradicare. Il secondo, la questione dei fondi, dei soldi che in realtà ci sono ma vengono spesi male. Eppure ci sono anche dei professori, dei docenti che stanno alimentando una protesta molto vibrante in questo momento in Italia, addirittura invitando i rettori a boicottare l'apertura dell'anno accademico prossimo. Professor Umberto Curi, lei, come ha detto, insegna storia e la filosofia all'Università di Padova ed è uno dei docenti che sta animando questa protesta. Per il tema non ci sono soldi, non ci sono fondi sostanzialmente. Ma guardi, anzitutto la protesta e l'appello a cui lei si è riferito non intende minimamente difendere l'università così com'è. Questo è un punto che va chiarito in maniera definitiva, cioè non vorrei che si alimentasse questa caricatura per cui da una parte ci sono le coraggiose denunce delle inefficienze, degli sprechi, dei soprusi che ci sono in università e dall'altra parte invece ci sono coloro che vorrebbero la conservazione del sistema così com'è. Questa è una rappresentazione totalmente falsata del dibattito che è in atto. E da questo punto di vista, se veramente si dovessero indicare queste due opzioni come le uniche sul tappeto, io devo dire che ad esempio non mi riconosco in nessuna delle due. Non mi riconosco certamente nella difesa dello status quo, perché vi sono aspetti macroscopici di inefficienza, di disfunzioni, di iniquità, di storture nell'organizzazione del sistema universitario italiano. Ma devo dire la verità, non mi riconosco neppure in questo modo di impostare le questioni che è in qualche misura ritornato anche finora nella conversazione che stiamo facendo. Devo dire che da questo punto di vista il libro di Perotti è molto più serio, rigoroso, equilibrato di quello che può sembrare sulla base soltanto di alcune accentuazioni che capisco per brevità si fanno in una trasmissione radiofonica. Sì, mi sta criticando, insomma, professore. No, l'accetto come, dire, no, ma l'accetto come critica, va bene. Guardi, io l'ho letto con molta attenzione il libro. Guardi. Credo che uno dei modi con i quali non si fa l'interesse dell'università è evocare gli aspetti, come dire, scandalistici della questione universitaria, perché poi è abbastanza facile mostrare che questi aspetti scandalistici, che sono innegabili, che andrebbero certamente eliminati anche con molta durezza, ma non costituiscono poi il vero e proprio nocciolo delle cose che non funzionano. E provo a fare subito un esempio per rendere più concreto il ragionamento. Il problema non è tanto l'omonimia, che giustamente però viene richiamata come un indizio di un sistema che non funziona. Il problema è il sistema del reclutamento dei docenti universitari, che è impostato male e che produce in termini molto negativi. Ma questo indipendentemente dai nomi, perché poi voglio dire, se uno va a vedere nella società gli studi professionali di avvocato quasi sempre hanno gli stessi nomi. Non vedo che cosa ci sia di per sé di negativo in questo. È impostata male la ricerca, cioè lei per esempio vorrebbe, come dice il professor Perotti, la chiamata libera, cioè oppure anche gli stipendi liberalizzati, il potere dire ogni università può volere quel professore e pagarlo quanto vuole. No, io vorrei anzitutto che venisse individuato con rigore e, ripeto, senza scandalismi, qual è il principio che rende l'attuale sistema di reclutamento universitario italiano letteralmente sciagurato. E questo meccanismo, io credo, va individuato nella deresponsabilizzazione. Mi spiego immediatamente. Ciò che funziona veramente per il reclutamento in Italia è il principio della cooptazione, nel senso che i docenti, che sono professori ordinari, cooptano, fanno entrare nella corporazione universitaria le persone che essi hanno scelto, talora scegliendo bene, spesso, bisogna riconoscerlo, scegliendo male o addirittura malissimo. Se esistesse la possibilità di rendere evidente che queste scelte sono la responsabilità, l'effetto, la conseguenza della responsabilità di singoli docenti che le operano, io credo che vi potrebbe essere un correttivo al sistema. Mentre ciò che attualmente è in vigore è far passare come concorso e quindi come procedura oggettiva di valutazione del merito, quella che in realtà è una vera e propria cooptazione. Sì, va bene che anche lei, professore, vede che insomma ci fa giù duro anche lei. Guardi, no? le faccio subito un esempio. Quando si bandisce un concorso si sa esattamente chi lo vincerà. Ma questo non deve essere considerato necessariamente un aspetto negativo. Negativo è che invece che rendere trasparente la procedura che ha portato all'individuazione ante litteram del vincitore, no, si bandisce un concorso, si mobilita una commissione. Sì, cioè invece che dirlo, si fa il concorso per quello, si fa finta che sia un concorso per tutti. Esattamente. Va bene, senatore Valditara, io credo che lei abbia anche proposto fatto una proposta di legge al riguardo, sempre sulla questione, la prima questione, quella del nepotismo. Di che tipo di proposta di legge si tratta? La mia proposta di legge, quella di riforma organica del sistema universitario, risale al 2006 ed è molto più ampia. In relazione a questo fenomeno del nepotismo, ho detto che forse in occasione della riforma del reclutamento bisognerebbe pensare seriamente a impedire la chiamata all'interno della stessa facoltà o dello stesso dipartimento in cui insegna un parente stretto. Ma al di là di questo, credo che il tema debba essere affrontato con una prospettiva più ampia e credo che occorra innescare un circolo virtuoso per cui sostanzialmente l'università abbia interesse a chiamare il professore più bravo, il professore abbia interesse a lavorare, a fare ricerca, a produrre risultati di qualità anche nel campo della didattica, perché così può guadagnare di più e lo Stato dà più soldi a quelle università che ottengono i risultati migliori. E questo è un po' il succo del disegno di legge che presentai già 2 anni fa. Che risolverebbe alla radice anche o comunque certamente contribuirebbe a attenuare questi fenomeni di nepotismo che si sono fortemente accentuati anche in relazione fra l'altro all'introduzione dei concorsi locali, concorso locale non dimentichiamoci che ha la presenza di un membro interno, è ovvio che il membro interno garantisce, credo che il 99% dei vincitori sia il concorrente locale, garantisce la protezione del concorrente locale. Tra l'altro io devo dire, così giusto per assecondare un po' il professor Curi che mi ha fatto una neanche troppo velata critica, voglio dire tutto il mondo è paese, funziona così, certo che però nel mondo universitario, come lei ha detto professore, c'è un concorso appunto e dovrebbe essere un concorso pubblico con tanti criteri di trasparenza e invece come anche lei ha detto, cioè si è istituito un sistema di cooptazione in cui si sa già chi vince. Io darei il primo ascoltatore, poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. 800 24 00 24. Paolo da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto vi ringrazio per la possibilità datemi di intervenire. Sottoscrivo appieno le parole del professor Curi. Si tratta proprio di ricongiungere sostanza e forma evitando le degenerazioni che ci sono purtroppo nell'università. Io sono un precario, dell'università, 3 anni di dottorato, 4 anni di studi di ricerca, prospettive future alla disoccupazione, dopo che lo Stato ha speso centinaia di migliaia di euro per formarmi. Queste sono le mie prospettive, accentuate, devo dire, da questa riforma Gelmini che, a dispetto delle parole del senatore Valditara, non tocca affatto il sistema dell'università nel suo complesso, ma va semplicemente a tagliare fondi e a costringere l'università a una privatizzazione al buio, sostanzialmente. Io voglio anche denunciare questo fatto, perché si parla tanto dei mali dell'università, non si parla di rimedi e si tace, questo disegno di legge non ne parla pressoché nessuno, anche oggi si parla dei mali dell'università e non del fatto che l'università verrà uccisa e non curata. Guardi Paolo, lei ha posto la sua tematica di rimedi, visto che nel libro Perotti ne dà qualcuno. Un ascoltatore all'800240024, Walter da Roma, buongiorno. Buongiorno, anche io volevo ringraziare per la possibilità di intervenire. Visto che parlavate poco fa delle pubblicazioni scientifiche come criterio per valutare il merito, io volevo dirvi che ne ho, diciamo, 49, visto che ne una ne sta ora uscendo, ne avrò 50 presto. Dovrei festeggiare, perché da un punto di vista di criteri del merito penso di averne, ma se io volessi fare un concorso pubblico sarei solo quello da far fuori, metterei in difficoltà la commissione probabilmente, però ci riuscirebbero, perché elaborerebbero criteri tali per cui i punti assegnati magari alle pubblicazioni in generale sono pochi e altri punti, molti di più, sarebbero dati ad altre cose. Sarebbe un problema, insomma, avere 50 pubblicazioni. Io creerei problema alle commissioni negli eventuali concorsi che decidessi di fare nel momento in cui non fossi il candidato interno, insomma, con, diciamo, buona pace di tutti i discorsi sul merito e sulla misurazione oggettiva del merito. E volevo chiedere, ma che fine ha fatto la proposta che era uscita un paio di anni fa durante la finanziaria? Io la chiamo proposta Mussi, insomma, quella di reclutamento straordinario basato solo sul merito, senza concorsi con orale, con scritti orali, che sono poi i luoghi dove vengono appunti. Grazie Walter. Non so se il professor Perotti vuole rispondere in doppia veste. La prima è davvero un problema per Walter avere 49, quasi 50 pubblicazioni? Sì, non conosco la sua disciplina, però nella disciplina che ho studiato io in molti casi chiaramente si vede, studiando i verbali, che le commissioni hanno fatto i salti mortali per escludere candidati di livello europeo o mondiale a favore di candidati di nessuna qualità scientifica. E riguardo alla proposta di Mussi, dell'ex ministro? Una proposta di Mussi che volesse reclutare soltanto sul merito, io questa è la prima volta che lo sento. Volevo fare riferimento a un'affermazione del professor Curi all'inizio del suo intervento precedente. Quando dice che i firmatari dell'appello per più fondi non vogliono difendere l'università italiana, ma allo stesso tempo gli scandalismi fanno male. Però io non credo che esista nella storia dell'università italiana, esistono decine, centinaia di appelli per battere cassa, ma non esiste un appello fatto da docenti, certamente non promosso dai rettori, per denunciare i mali del sistema di reclutamento e tutti i mali che conosciamo. Io conosco solo appelli per battere cassa allo Stato. A proposito di battere cassa allo Stato, professore, veniamo a un altro mito che anche poi lei tramuta in una proposta, insomma. Il mito è questo, che l'università italiana deve essere sostanzialmente gratuita o finanziata dallo Stato, perché è un'irrinunciabile conquista di civiltà, questa vuol dire un'università egalitaria, vuol dire dare la possibilità del diritto allo studio a tutti. Lei dice non è così e adesso ci spiega perché, e propone, tra le varie proposte, bisogna aumentare la retta, alcune rette dell'università. La cito perché è una cosa sicuramente che fa discutere. Ci spieghi questo punto, professore? Sì, non è così, perché all'università vanno soprattutto i ricchi, e in particolare al sud vanno quasi esclusivamente i ricchi, però è finanziata con le tasse di tutti, quindi inclusi i poveri. Quindi in questo momento l'università italiana, nonostante la retorica, nonostante le leggende metropolitane che circolano, l'università italiana è un Robin Hood al contrario, che usa i soldi dei poveri per finanziare gli studi dei ricchi. Quindi l'egalitarismo non c'è nell'università italiana di oggi, perché vanno i ricchi soprattutto, finanziata da tutti ovviamente. Esatto, e la cosa secondo me più incredibile è che appena si parla di aumentare le tasse, le rette studentesche universitarie, ci si ritrovi gli studenti nelle strade, studenti sicuramente ben intenzionati, in buona fede, ma che non si rendono conto che aumentare le rette universitarie per coloro che possono permetterselo, ovviamente, è una questione di civiltà e di eguaglianza. Vediamo su questo punto, professor Curi, che ne pensa l'idea dell'aumentare le tasse, perché non è vero che l'università di oggi è un'università che permette a tutti di studiare, vanno soprattutto i ricchi e la pagano tutti, e dunque in realtà la pagano i poveri, stanno pagando l'università dei ricchi in Italia. Ma anzitutto una precisazione brevissima che peraltro introduce al tema che lei ha proposto, e cioè devo dire la verità che non è esatto che non vi sia stata una elaborazione propositiva per quanto riguarda i temi da affrontare per una riforma radicale dell'università. È vero che è stata minoritaria rispetto alla proliferazione di appelli in difesa dell'università. Bisogna anche dire che mentre quando c'è un appello che cerca di richiamare l'attenzione sui tagli che sono previsti per l'università, i media ne danno immediatamente eco e testimonianza, il lavoro di elaborazione di proposta, che pure è stato fatto nel corso di questi anni, per lo più resta quasi ignorato da tutti i grandi mezzi di comunicazione. D'altra parte, è un punto che lei ha accennato all'inizio della trasmissione, secondo me adesso che si parla di fondi va ripreso, cioè noi stiamo, io credo, svolgendo questa conversazione perché l'occasione è offerta dal bel libro di Perotti, ma anche perché c'è una mobilitazione dei docenti contro un decreto legislativo che porta il nome della Gelmini. E certo. È veramente curioso che di questo non si parli. Ma c'è cioè, anche il senatore Valditara, adesso gli allora chiedo proprio su questo. Vorrei capire, se mi è consentito, a questo punto la girerei direttamente al senatore Valditara, ma interesserebbe anche l'opinione di Perotti. Una volta individuati i mali, o almeno alcuni dei mali sui quali fin qui ci siamo intrattenuti dell'università, qualcuno mi deve spiegare perché tagliare indiscriminatamente, indipendentemente da come gli Atenei abbiano amministrato finora le risorse, indipendentemente dalle facoltà, indipendentemente dai settori disciplinari, tagliare indiscriminatamente a tutti sostanzialmente una quota di fondi che nel termine del triennio di applicazione equivarrà a 1.400.000.000 di euro, in che senso questo risolve i mali? Vediamo dal senatore Valditara. Ieri il ministro Gelmini si è espressa sull'università, ha detto: stiamo ultimando il piano per mettere gli studenti al centro dell'università, e ha dichiarato: non sarà facile, non si possono più avere 5.500 corsi di laurea, 170.000 materie e meno laureati degli altri paesi europei. Senatore Valditara, anche l'ascoltatore, oltre che al professor Curi, si riferisce al decreto Gelmini, insomma, ma i tagli, esatto, previsti dall'università. Ma io vorrei fare un po' di chiarezza a questo riguardo, perché non c'è un decreto Gelmini sull'università, c'è una manovra finanziaria che prevede una serie di interventi di carattere, soprattutto di carattere economico. Lasciamo poi da parte il discorso delle fondazioni, che sono facoltative, la cui istituzione è facoltativa. Ma credo che si possa riassumere l'intervento del governo in questo settore all'insegna di due termini fondamentali, o almeno in questo momento, in questa fase, di un termine fondamentale, cioè il discorso del risanamento. Abbiamo citato, lo ha detto lei, 5.500 corsi di laurea, non dimentichiamoci che 7 anni fa erano soltanto 3.000, abbiamo il 90% della spesa che per almeno un terzo dell'università va solo per il personale, abbiamo qualcosa come 339 sedi staccate, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un otre forato che perde acqua. Allora io credo che sia corretto intanto iniziare a avviare un percorso di risanamento. Il 2009, a mio avviso, deve essere l'anno del risanamento. Poi, e su questo sono invece assolutamente d'accordo, il 2010 deve, se partirà questo risanamento, deve prevedere un rilancio del sistema universitario. E allora ecco che noi intendiamo nel 2009 fare quelle riforme a cui si faceva riferimento prima. Quindi vorrei anche qui precisare, non è vero che Mussi aveva avviato un percorso di riforme del reclutamento e improntato al merito. La prima proposta di Mussi prevedeva addirittura che un ingegnere giudicasse un medico, un giurista giudicasse un economista, e si è poi arrivati con l'ultima proposta Mussi, che ha riaffermato proprio quei concorsi locali sindacali con addirittura i due idonei, vincitore e idoneo, che sono alla base, dicevamo, di questo ulteriore decadimento del nostro sistema. E allora che cosa bisogna fare? Ripeto, innanzitutto rivedere il reclutamento. Immaginando, io non sono d'accordo con la chiamata libera, sono d'accordo che occorra dare su questo certamente più autonomia ma anche responsabilità alle università, ma una lista di idoneità nazionale ci deve essere, una verifica nazionale ci deve essere, magari immaginando fra l'altro che non ci sia in quella commissione che decide un professore che appartiene alla stessa facoltà che ha bandito il concorso, perché è evidente che altrimenti il rischio di una valutazione non del tutto oggettiva. E poi c'è anche un altro problema che è stato prima toccato, il discorso della contribuzione studentesca. Beh, io avevo proposto un sistema che in altri paesi, penso per esempio all'Inghilterra o altri paesi anche extraeuropei, ha dato ottimi risultati, e cioè immaginare che lo studente dopo la laurea, al momento della dichiarazione dei redditi, quindi si presuppone che abbia trovato lavoro, destini una parte, una piccola percentuale del suo reddito, delle sue tasse, delle sue imposte che paga, alla università che gli ha consentito di laurearsi. Ecco, un sistema di questo tipo, che ha un finanziamento di questo tipo, che ha funzionato egregiamente in altri paesi, sarebbe estremamente semplice, non graverebbe sulle famiglie e consentirebbe anche di avere più fondi all'università. Detto questo, mi rendo conto che è un sistema probabilmente in Italia si deve ancora iniziare a parlare, immaginare, ma questo lo dico a titolo puramente personale, che quantomeno su quei fuoricorso che non sono studenti lavoratori e che magari sono fuoricorso da 2 anni e più, si possa liberalizzare la rete universitaria. Credo che questo sia farli pagare di più, insomma. Io voglio salutare, devo andare a dare le informazioni sul traffico, ma saluto, ci ha raggiunto il rettore dell'Università di Bologna, Pierugo Calzolari. Buongiorno professore. Buongiorno. Un altro mito che il professor Roberto Perotti nel suo libro vuole sfatare è quello di quando si dice: ma in fondo l'università italiana ha punte di eccellenza, è molto competitiva nel mondo. In realtà, dice il professor Perotti, non è proprio così. E allora siamo un po' sobbalzati sulla sedia quando abbiamo letto la classifica pubblicata dal Times, secondo il quale l'ateneo più antico del mondo, quello di Bologna, insomma, sta messo maluccio, credo, al 192esimo posto, o sbaglio, rettore Calzolari? È così. Io invertirei un poco anche l'ordine dei fattori, direi però il primo in Italia. Il primo in Italia, ma siamo 192esimi, insomma vuol dire in base a questa classifica poi ognuno cita le proprie, però quello che scrive il professor Perotti forse ha un pizzico di verità, non siamo così competitivi a livello internazionale. No, non siamo competitivi se si guardano questi risultati, che sono i risultati in termini assoluti. Se però lei va a guardare altri parametri, per esempio in termini relativi, la produttività scientifica, e cioè se lei prende il numero, sono cose che fanno parte della letteratura ampiamente, dei lavori fortemente citati, c'è una lunga definizione a riguardo, e lo divide per il numero dei ricercatori, scopre incredibilmente, cose che sono state pubblicate per esempio anche da Nature qualche anno fa, che il nostro paese balza in testa. E viene dopo soltanto la Svizzera, l'Olanda, il Regno Unito, addirittura, la Danimarca. Certo. Ecco, il fatto è che il valore in termini assoluti della quantità della ricerca scientifica italiana è modesta, perché modeste sono le risorse, ma la produttività è alta. Dunque, quando si parla di università si deve partire da questo innanzitutto, e cioè il primo compito, quello della ricerca scientifica, la sa fare. Oltretutto, lei vede che nelle classifiche Shanghai oppure Times oppure Webometrics, si alternano, sono le solite, c'è una decina di università italiane che si alternano in testa, insomma. Ecco. È una questione di risorse, lei dice. Dunque, su questo, no, non soltanto. Non soltanto, però è una questione di risorse. Sulle risorse vorrei dire una cosa, perché ho sentito qualche battuta poco fa. Non è soltanto una questione di risorse, non c'è nessun dubbio che senza mettere mano al bilancio non si va da nessuna parte. I risultati deludenti, se si vuole, che noi abbiamo visto sono destinati a peggiorare ulteriormente. Bologna è stata retrocessa, eravamo al 170esimo, siamo andati al 192, perché stanno arrivando le nuove università asiatiche, per esempio, e anche perché le università d'Europa stanno intensificando la loro azione in tutti i settori grazie a maggiori investimenti da parte dei governi. Noi mancheremo globalmente come Europa l'obiettivo dell'agenda di Lisbona, cioè il 3% dedicato alla ricerca, eccetera. Ma lo mancheremo perché siamo troppo lontani. Molti paesi hanno già raggiunto l'obiettivo, tutti migliorano le loro prestazioni, ce n'è uno solo che è il nostro, che riduce l'investimento. Ecco, vorrei coinvolgere prima due ascoltatori, poi su questo torno dal professor Perotti. Pietro da Roma, siamo in chiusura, dunque vi prego di essere rapidi. Pietro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi sono laureato all'Università di Bari in fisica e ho fatto una tesi in astrofisica, raggi cosmici, e in particolare volevo portare la mia esperienza. Ho fatto una tesi di laurea che è stata pubblicata e il mio nome è stato inserito solo tra i ringraziamenti. Diciamo che lì ho capito come funzionava l'università a Bari e ho deciso di intraprendere, di lasciare l'università e di iniziare a tentare di lavorare nel mondo, dell'informatica e delle telecomunicazioni, dove adesso lavoro. Però volevo portare un altro esempio di un mio carissimo amico che si è laureato a Bari, sempre lì, e poi ha girato praticamente mezzo mondo. È stato al CERN, al Fermilab in America, è stato in Inghilterra, è stato al Max Planck Institute in Germania, praticamente ha girato tutti i più grossi centri di ricerca nel mondo, sì, sulle particelle elementari. Poi è andato all'Università di Bari a fare un concorso dove i partecipanti erano in due, c'era lui e un altro mio amico, di corso, che si è laureato dopo di noi, dopo 5 anni, sì. Ebbene, è ovviamente chi ha vinto il concorso è stato quest'ultimo, che era rimasto sempre lì dietro al professore. Ah vabbè, insomma, ha vinto, ci sta un po' dicendo che è vero tutto quello che abbiamo detto finora e che scrive anche il professor Perotti. Grazie Pietro. Sandra da Roma, buongiorno. Buongiorno, sarò velocissima. Allora, premetto che mi sono laureata all'università, non so se la conoscete, l'Università di Fisciano, provincia di Salerno. Accidenti, ce ne sono talmente tante che... Ecco, appunto. No, io le dico solo questo. Quando ho fatto colloqui tipo Milano, Novara, Torino, riagganciandomi anche al discorso del rettore dell'Università di Bologna, addirittura mi veniva chiesto Salerno è provincia di... E io dico no, veramente Salerno è provincia. Beh, vabbè, quindi... questo è un po' ignoranza, però che Salerno faccia sì, provincia bisognerebbe saperlo. Certo, però mi rendevo anche conto di quanto fosse poco conosciuta l'Università di Salerno. Adesso mi chiedo, paesini di tipo 10.000, neanche 10.000 abitanti, dove non esistono licei, scuole magistrali, non esiste un cinema, strutture sportive, piscine, scuola media, per costruirla ci hanno messo 30 anni. C'è l'università, però. C'è l'università, è immancabile. Di Benevento. Allora mi chiedo, ma non è che bisogna... chi sono i professori che vanno a insegnare in questa bella domanda. Da professor Perotti, abbiamo 30 secondi, lei dedica anche una parte, un po' piccola del libro, però anche a questa, la proliferazione dei corsi di laurea, degli atenei, alcuni dei quali neanche si scopre, per esempio, sui siti internet chi sono i professori di queste università. Sì, questo è un problema evidente che fa parte del sistema attuale. Volevo un attimo riprendere una considerazione del rettore Calzolari, perché questo è un punto importante. Si dice che l'Italia spende pochissimo in ricerca, meno di quasi tutti gli altri paesi europei, che però è al top della ricerca, ma se fosse veramente così, noi spenderemmo pochissimo, saremmo molto produttivi, sarebbero gli altri paesi che dovrebbero imitare noi, se avremmo scoperto il sistema migliore. Il fatto è che ovviamente noi non siamo al top della ricerca, se si guardano i dati, la stessa indagine di Nature che citava il professor Calzolari, se si guarda l'indice più usato, che è un indice che tecnicamente si chiama il fattore di impatto standardizzato, si vede che l'Italia, come dice lo stesso rapporto di Nature, è ultima in Europa davanti solo a Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Polonia. Insomma, alla stessa conclusione ci arriva la conferenza dei rettori. Quindi... Insomma, no, ma questo per dire che le classifiche poi vengono lette da vari aspetti, oppure vengono citate classifiche diverse. Io mi devo fermare, ma sul tema università torneremo. Segnalo in chiusura ancora l'università truccata, scritto da Roberto Perotti, edito dai Naudi. Per chi volesse approfondire, lì ovviamente sono 180 pagine in cui c'è di più dei temi che abbiamo toccato oggi. Grazie ad Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e Giorgio Matè in regia. Ci ritroviamo con Viva Voce domattina.